Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Un grazie ad Edo e un benvenuto a voi, da parte di Giulio Caperdoni, per Eclettica, anche quest'oggi e anche questa settimana, tutti i giorni dal lunedì al venerdì fra le 19 e le 20. Giulio è radio@rockfm.com e l'indirizzo di mail da utilizzare come riferimento, anche per l'iscrizione alla lista nera che vi permette di ricevere settimana dopo settimana la playlist. Si svegliò a mezzanotte in punto, come sua abitudine, ogni notte, alla stessa ora, senza aiuto di una sveglia o di altro, ma spinta da un desiderio tutto interno che la costringeva, suo malgrado, ad aprire gli occhi con precisa puntualità. Restò per alcuni momenti al margine della realtà, abbandonata alle visioni dei sogni e ai bisbigli della percezione cosciente, finché, prima di sollevare le palpebre, venne colpita dall'improvvisa ansia che la invadeva quotidianamente nel timore che il sonno l'avesse ingannata. Questo era l'incipit di Tra i due palazzi di Najib Mahfouz. Thank you. We are told to remember the idea, not the man. Because a man can fail. He can be caught. He can be killed and forgotten. But 400 years later, an idea can still change the world. You think it's too hard to remember? Just remember that letters gonna switch to numbers, but your number, you're dead. It's a bitter fate. You surrender at last. With spins and mirrors lost with the pain. It was fun, but then I guess. Abbiamo aperto con il Michigan dei tre giovanissimi Our Brother the Native, che ci siamo ascoltati con As They Fell Beneath Us. Abbiamo poi proseguito con gli Yuppie Flu, un'anticipazione di quello che sarà il loro nuovo album sempre per Home Sleep, Cold Vice, per la formazione che di base fa a Bologna. Devastations invece è la formazione che ritorniamo ad ascoltare qua in Eclettica, dopo che qualche tempo fa ci eravamo ascoltati un estratto intitolato Mistakes da quello che è il loro ultimo album Yes You. il trio australiano che però fa di base ormai da parecchio tempo in Europa, una storia che la accomuna anche ad altri ben più noti australiani e che hanno inciso questo ultimo per Beggar's Banquet. Cos'è successo? È successo che mi è capitato di riascoltarlo e di notare una canzone che al primo ascolto non avevo sicuramente colto nella sua bellezza, nella sua intensità, e quindi Devastations che ritornano nelle playlist di Eclettica con Rosa. I never leave you cold or dry. Il Sayed Hamad Abdel Gawad si chiuse alle spalle il portone di casa e con passo lento e fiacco attraversò il cortile al fioco chiarore delle stelle, affondando la punta del bastone nella terra polverosa ogni qualvolta vi si appoggiava nella sua svogliata andatura. Quel soffocante calore gli arroventava il petto e gli faceva sospirare l'acqua fresca con cui si sarebbe lavato faccia, testa e collo per placare, forse anche per poco, la calura di luglio e l'arsura che gli bruciava le viscere e la testa. L'idea dell'acqua fresca lo rallegrò a tal punto da far distendere i tratti del suo volto. Questo era l'incipit de Il Palazzo del Desiderio di Najib Mahfouz. Oggi è evidentemente il giorno in cui vado a riprendere album che già ci eravamo ascoltati, li vado a riprendere con tracce che ancora non erano state oggetto di ascolto, perlomeno all'interno di Eclettica. Prima però vi voglio ricordare che ci siamo appena ascoltati un nuovo duo italiano, loro si chiamano Il Genio e ce li siamo appena sentiti con Pop Porno. L'album che ritorna è Elegies to Lesson Learned, ovvero sia quello che è l'ultimo per Beggar's Banquet da parte degli I Like Trains. Parlo di loro perché stanno per arrivare in Italia. Nel mese di aprile infatti ci saranno due date a Bologna e Piacenza e la traccia che io sono andato a scegliere è proprio quella che chiude quel loro disco, traccia che si intitola We Go Hunting. E a proposito di tour in Italia, stanno per arrivare proprio nei prossimi giorni Band of Horses. E a proposito di Band of Horses, sarò più chiaro nella seconda parte di quest'oggi di Eclettica, c'è una sorpresa per gli ascoltatori di questa trasmissione.